compagni miei, da tempo condividiamo sventure. Anche a queste un Dio metterà fine. Rinfrancate i cuori, scacciate paura e tristezza. Forse un giorno gioverà ricordare tutto questo. Sto bene, qui. Sono stata bene a Napoli, dal giorno in cui la vidi per la prima volta. Un presepio di luci sparse e luccicanti, col mare ai suoi piedi. Non l'avevo mai visto. Il Vesuvio, Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, Santa Lucia. Pensai che non fosse del tutto vera, che potesse sparire da un momento all'altro. Le prime parole che ho imparato sono state... Stato buono. È un bel suono, mi dissi. È bello augurare a uno d'essere buono. Avevo solo 8 anni. Ora, dalla finestra, oltre le sbarre, vedo le cime dei pennoni del porto. Il vulcano è inquieto in questi giorni d'agosto. Innamorata del Vesuvio, mi chiamava mio padre. Qui dentro sto, come in una bolla d'aria. Una di quelle campane di vetro che coprono le statuette di San Gennaro. 2 volte al giorno viene una suora, porta da mangiare. Non dice una parola, non risponde, non guarda. Sta alla larga, sbircia, con occhi spaventati, sa che sono condannata. Io oggi devo morire. Mi hanno tolto le mutande, infilato le dita nelle parti più intime. Preparata per l'esibizione finale. È la toilette della morte, bisogna essere pronti. Aspetta, dammi ancora un po' di tempo. E un ultimo desiderio. Una tazzina di caffè. Imparare a morire. Imparare a morire, per disimparare a servire. Mi sono allenata tutta la vita. Non ho paura della fine. Non ho scritto lettere, non ho implorato, non ho chiesto d'avere salva la vita. Ho chiesto solo di essere decapitata, ma hanno deciso di impiccarmi. Ho paura di perdere la mia dignità, di perdere il controllo del corpo, dell'intestino. Che mi si pieghino le ginocchia sulla via. Accusia dai, così devi andare, si dice a Napoli. Tu non ci puoi fare niente, il resto di niente. Bisogna chiedere perdono. Chiedi perdono, devi chiedere perdono. Devi perdonare, perdonare. Non ho nulla da perdonare, né a me né agli altri. Re Ferdinando e Maria Carolina mi mandano al patibolo. Dovrei perdonare loro. A tanto non arrivo, ma non provo rancore. Come volergliene, se tutti in massa gli hanno implorato di tornare. Ha ragione Vincenzo Cuoco, a Napoli la rivoluzione pochi la capiscono, pochissimi la provano, quasi nessuno la desidera. Da bambina mi davo con la fantasia il potere di volare. Il mio spirito si librava nell'aria, già contagiato dalla febbre della libertà. La mia colpa... Se è colpevole, scrollare un mondo addormentato, svegliare le coscienze, combattere il dispotismo, essere cittadini e non sudditi, servi. Qua non si è mai capito che la cosa più importante è educare il popolo, anche se è difficile. È stata questa la battaglia principale del mio giornale, il Monitore Napoletano. Fai la rivoluzione, il popolo rimane ignorante. È semplicemente cambiato il padrone. Se lo vuoi educare, devi insegnargli a leggere e scrivere, altrimenti come comunichi le idee? Come prima cosa, scuole obbligatorie per tutti. Grandi, piccoli, lazzari, cavalieri, preti e perché no, giacobini. Qua l'ignoranza ci mangia tutti. Dove abbiamo sbagliato? La libertà dello spirito va bene, ma prima di ogni altra cosa c'è la libertà dal bisogno. Come può essere libero lo spirito se assediato dalla fame? È stato un dispendio di energia inutile. dissipata in un'insurrezione che non ha smosso nessuno. I nobili hanno mantenuto i loro privilegi, i burocrati parassiti leccano i piedi di un sovrano deciso a non cambiare niente. Non è rimasto più niente. La libertà, la Costituzione, la lealtà, tempo scaduto, a morte di Giacobbe, i figli del demonio, a morte, donna Eleonora, a morte! Di quale delitto mi sono macchiata? Mai ho scritto, uccidete il tiranno, la violenza mi spaventa. Ho spronato, questo sì, le persone più sprovvedute a non rassegnarsi al degrado, e a recuperare un minimo di rispetto, un minimo di dignità. Molto tempo ho pazientato, ma alla fine sono riuscita a togliere dalla strada Graziella, una ragazzina spaurita come un uccellino che avevo trovato per aiutarmi nelle faccende di casa. Viveva a San Matteo, in un basso bordello, insieme alla sua famiglia numerosa. Quando sua madre, detta Naso di Cane, me la portò a casa, era tutta pelle e ossa, con la faccia coperta di brufoli, come se avessi avuto il vaiolo. Abituata a battere il marciapiede, restava qualche giorno e poi scappava di nuovo. «Ma perché non metti la testa a posto?» «Perché l'uomo mi pavano, perché io non ti pago, ma io ca, faccia la serva!» Sulla strada invece sei nelle mani di mascalzoni. Perché? Chi le ca conosce tu? Son che nata manera. I miei amici sono dei galantuomini, mentre i tuoi clienti se ne approfittano di una che nemmeno la penna in mano sa tenere. Tentai di insegnarle a leggere e scrivere, ma senza risultato. Ogni volta che prendeva la penna d'oca in mano, o le cadeva o la spezzava. «Non è roba per noi! Signor! Signor, ma a te, che tu non bort!» «Per leggere qualche libro, un giornale, così impari che succede nel mondo, fai la firma!» «Ognuno nasce con la parte sua, nasce prevoto ed è prevoto, nasce zoccola ed è zoccola, e poi prevoto, zoccola, signor, signor, tutto quanto, morim!» Un giorno gli ho chiesto, «Ma tu hai mai desiderato d'essere felice, almeno una volta in vita tua?» «Felice? E chi è felice, signor? Tu sai che voricela!» «Io? Non so.» La lingua, la testa, giù, con buona pace del re, dall'alto nudo, il mio corpo esposto alle infamie. Impiccata finisce Eleonora Fonseca Pimentel. Com mais Sono nata il 13 gennaio 1752 sotto il segno del Capricorno. Credo nell'influsso delle stelle sul destino delle persone. Sono state le stelle a suggerirmi: continua, va avanti. E io sin da piccola sono stata curiosa, testarda, perseverante, pronta a prendere tempo per poi esplodere all'improvviso. Da ragazza avevo due occhi di fuoco. Ero sincera, fervida, non capivo il cinismo. Volevo che le cose migliorassero, credevo che potessero migliorare, non solo per pochi. Ero disposta per questo a rinunciare ai miei privilegi. Forse ero ingenua, ma non mi sono mai abbandonata all'infatuazione. Non mi sono mai lasciata soffocare dall'amore di una sola persona. Vedevo la bellezza, credevo nel futuro, ma anche chi progetta il bene può finire col far male. È umana l'illusione del bene, esile è la speranza di essere immuni dagli errori, sterile una vita senza ideali. Se sono come sono, lo devo alla mia famiglia. Mia madre mi chiamò sul suo letto di morte. Lenore, Euvo. Gli asciugai la fronte dal sudore. Sentiva così caldo. Mi implorava di alleggerirla, di farle vento. Il suo corpo umido si dissolse nel nulla. Tremai di paura. E imparai che la natura autentica e segreta di un essere umano affiora in viso solo dopo la morte. Mia madre non ci sarebbe stata mai più in giro per la casa ad assicurare l'indispensabile ritmo della vita, mai più. Capì allora l'importanza di quelle cose piccole e sciocche, senza le quali però è difficile esistere. Mi domandai se avessero più valore libri, studi, versi o l'opera nascosta, umile, di una donna che distrugge sporcizia, disordine, programma nutrimenti e benessere, assicura che domani si potrà vivere ancora. Questo aveva fatto mia madre. Avevo allora tutta la vita davanti e avevo mio padre. Mio padre, lui sapeva rendermi felice con una carta fine di Amalfi e qualche penna d'oca per scrivere tutto ciò che mi passava per la testa. Questo era piacere vero, dolce, sottile, anche un po' ansioso. Temperare la punta, sentire la cartilagine sotto la lamella tagliente, il liscio della carta sotto i polpastrelli, prepararsi l'inchiostro. Piacere simile all'amore. Scrivendo trovavo conforto, speranza, aiuto. Reagivo alla paura della morte con la sete di vita. Era sete di parole. Più parole possiamo prenderci, più siamo liberi. Ma i nostri beni si stavano esaurendo e mio padre, per paura di un futuro indigente, mi presentò il conte Tria, capitano del battaglione Sannio di stanza a Napoli. Niente più parole, né libertà, né amore. Sul letto di morte mi avrebbe chiesto perdono per avermi data in moglie ad un uomo rozzo e volgare. Ma ognuno ha il suo destino e io ho avuto il mio. A così, ad ahi. Quando la mia famiglia fu costretta a fuggire da Roma per paura di ritorsioni contro i portoghesi nel regno pontificio, zio Carlos, con l'espressione infelice di sempre, disse: «A desgrassa perseguinos, somos piores que os muriscos de España, expulsos del mundo intero». «Pero Napoli, Napoli è un lugar molto civilizzato». Nonna Eleonora evaporò di gioia. «Ali, os padres, ficamno canto delis, va ser bon para todos. Li preti li fanno stare al posto loro, sarà un bene per tutti». Io ero ancora piccola, ma volevo una terra in cui mettere radici. Ci avevo provato a Roma, dove ero nata, sul porto di Ripetta, i primi giochi al pincio, le passeggiate con zio Antonio. Ma quando vidi Napoli pensai: da qui io non mi muovo più. A Napoli l'odore dell'incenso si mescolava al profumo dei dolci, alla puzza di piscio dei gatti, ai cavoli lessi, ai broccoli nei bassi. Mi perdevo nei vicoli dove il frastuono era la regola, il sole spaccava le pietre ed esaltava gli animi, allagava di giallo il porto, incendiava l'estate e d'inverno il rumore delle onde che battagliavano con gli scogli. A Napoli divenni grande. Una macchia di sangue segnò il passaggio. «Lenor, ora sei una donna», disse mia madre, e io frenai le mie corse. In casa seguivo l'esempio di zio Antonio, ammirava Gian Segno e metteva in discussione i dogmi inappellabili della Chiesa, leggeva i libri di Diderot e di Montesquieu, andava al San Carlo a sentire le poesie di Metastasio e la musica di Paisiello. Fu mio zio a insegnarmi il latino, greco e storia, a lui devo anche la curiosità per l'astronomia. Questa è roba buona che viene dalla Francia, mi disse, regalandomi un libro di Le Bouvier di Fontanelle. Si trattava di un volumetto intitolato La damigella istruita, con nozioni di chimica, fisica ed economia. Ne fui folgorata. Cominciai a scrivere versi. E quando zio Antonio lesse le mie prime poesie, volle presentarmi ai suoi amici intellettuali. Conobbi nei salotti della Napoli colta Gennaro Giordano, l'avvocato Mario Pagano, il medico Domenico Cirillo, il fiore dell'intelligenza napoletana. Mi legai con tenera amicizia a Vincenzo Sanchez, un giovane serio, bello, occhi chiari, sinceri, misurava con cura ogni parola. Un giorno, disarmata, gli dissi come la pensavo, gli dissi che mi stupiva non scoppiassero sommossi ogni giorno in una città dove la miseria era così feroce. Mi spiegò. In questa città i nobili e i preti si mantengono a spese della società. Non ci sono notai, medici, economisti. Mancano servizi, strade, scuole, industrie. I contestatori si infuriano ogni volta che il re offre al Papa uno scrigno pieno di denaro e di gioielli. Ma la gente porta rispetto ai sacerdoti che fanno combriccola con il sovrano. Ferdinando non assale in zucca, scherza coi Lazzari e va dietro alle ballerine del San Carlo. E chi governa la città? Tutti si arrangiano per portare un pezzo di pane sulla tavola. Per le grazie si rivolgono a San Gennaro e i favori continuano a chiederli al re, che li rimanda a casa con un mucchio di promesse mai mantenute. Se fossi in te, Lenore, mi darei alla letteratura e non mi preoccuperei di come va il mondo. Nonostante tutto, Napoli resta affascinante, allegra. Sì, ma io voglio capirla. Conoscerla bene. E lui mi aiutò a conoscerla, in tutti gli angoli più segreti, in tutta la sua intima bellezza. Posillipo. Posillipo in greco significa pausa dal dolore. Memorabile primavera del 1768. Molte cose mi resero felice. Il tempo che si andava aprendo all'estate, la simpatia dei nuovi amici, i primi riconoscimenti pubblici della mia poesia. In aprile venni ammessa all'Accademia dei Filaletti, con un abito di seta color panne, la parure di nonna Eleonora al collo, lessi un sonetto. De dolce musa, vieni, soccorri la tua ancella. E la musa mi ascoltò. Al termine della lettura tutti sembravano contenti. Fui Eropedessa a consigliarmi di puntare più in alto, l'Accademia dell'Arcadia. Scrissi il Tempio della Gloria per le nozze di Ferdinando e di Maria Carolina e fui invitata a corte. Il re era imbarazzato, la regina colta, vicina ai fratelli muratori, la libertà, l'uguaglianza. Mi presentai con lo stesso vestito chiaro, mio sottisso sullo scollo e l'acconciatura di Gennarino, il parrucchiere che alla francese chiamavamo Monsieur. Caro sì, prima di cominciare, poi mi schiarì la voce. Lenore, pensai, questa è la tua occasione. Non mi importò più di niente, tenevo i miei versi davanti, bei versi sui quali avevo faticato, migliori di tutti quelli sentiti prima. Li lessi con le guance bollenti e il cuore che batteva all'impazzata. Quanto è bello lo cacare, dice il re. Meglio assai de lo mangiare, a mangiasse fa fracasso, coi criate e coi vaiasse, a cacare sulo sulo te la vidi tu e lo culo. Al re non interessava la poesia, ma mostrò di apprezzare il mio seno e con aria compiaciuta alla fine applaudì. La regina non gradì a denti stretti alle poppe d'una vacca. Lo riferì Emma Hamilton, con il gusto di una pugnalata al cuore. Era una di quelle donne che si bevono gli uomini come se fossero tuorli d'uova, e io non avevo nulla da spartire con certe dame di corte. Si diceva che fossero loro ad accompagnare Maria Carolina nei bordelli. Si spacciavano per prostitute senza ritegno. A Napoli avevano tutti una gran voglia di svagarsi, perdendo ogni naturalezza in quella corte si sfiorava il ridicolo. Salamelecchi, parrucche, abiti scollati e lingue sboccate. Scrivevo i miei versi. Bibliotecaria della regina, trascorrevo le mie giornate tra i libri, studiando in saloni che nessuno frequentava. Fui ammessa all'Arcadia col nome pastorale di Altidore e mi venne consegnato l'elenco di tutti gli arcani d'Italia e d'Europa. Avviai uno scambio di lettere con molti di loro e un giorno decisi di scrivere al maestro Pietro Metastasio, inviandogli una copia del Tempio della Gloria e un mazzo di sonetti. Mi rispose, e nelle lettere successive prese a chiamarmi amabilissima musa del Tago, mia dolce amica. Questa corrispondenza intima mi eccitava e mi rendeva felice. Il mio cuore aperto era pronto all'amore. Conobbi Luigi Primicello, poeta, insegnante, drammaturgo, un uomo. Mai avevo provato in vita mia una sensazione così bella. In giro per la città, che si risvegliava la primavera, parlavamo di tutto: libri, versi, sogni, speranze, stordimento favoloso, i primi baci lenti, labbra sulle labbra. Ma Luigi era sposato, io troppo giovane e pudica per donarmi a lui. Un giorno, dopo vani tentativi di prendermi, sbottò: se volevi rimanere vergine, dovevi andare in convento, ma vai all'inferno tu e quello schifo di poesie che fai. All'epoca ignoravo che bisogna guardarsi le spalle da chi con disinvoltura dichiara di volerti bene. Si iscrisse alla Società dei Liberi Muratori per ottenere i favori della regina e divenne primo poeta di corte. Mi ero fidata di un Volta Gabbana. L'amore è crudele, violento e ha spilli che pungono. Per farmi passare la cotta mi tenni alla larga da Palazzo Reale. Al mattino lasciavo il vecchio appartamento in cui abitavo e da Santa Teresella mi spostavo ai quartieri spagnoli, dove la crudezza della vita appariva normale. Spiavo i vicoli sporchi senza capire come chi ci abitava potesse adattarsi a tanto squallore. L'unico farmaco dell'esistenza consiste nel dono dell'ignoranza, che metti al riparo dalla disperazione. E io ero felice, avevo talento e usavo la testa. Del corpo non sapevo che farmene. Com'è strana la vita. A un tratto ti accorgi che respiri aria diversa, frizza in requieta attesa di avvenimenti nuovi. Studiai Giannone, Genovesi, lessi giornali stranieri, gli opuscoli di Filangieri sul diritto pubblico, i primi saggi di Pagano, mi procurai testi di economia politica, di matematica e mi sentii diversa, più matura, più forte. Cominciavo a vedere dentro i fatti, le persone. La perdita della fede portò ad una nuova visione del mondo. La religione non era che un drammatico bisogno nato dall'ignoranza, alimentato da chi presume di svelare i misteri. Così i preti hanno conquistato il potere. Quanto leggevo e vedevo sembrava spiegare perfettamente il corso della storia. Il mio amico Vincenzo Sanchez mi prestò con 1000 raccomandazioni un opuscolo. Era la Dichiarazione dei diritti del popolo americano. Tutti gli uomini sono stati creati uguali e dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, tra cui la libertà e la ricerca della felicità. Per garantire tali diritti vengono istituiti i governi, i quali traggono i loro giusti poteri dal consenso dei governati. Ogni qualvolta una forma di governo divenga distruttrice di tali fini, il popolo ha il diritto di modificarla e di abolirla. Pensiero e personalità si stavano formando e il matrimonio non era certo una priorità. Fu mio padre a scegliere per me. Non ero più così giovane quando mi sposai. Avevo 25 anni, lui 44. Pasquale non aveva istruzione, ma era esperto in fatto di donne e fu capace di vincere la mia ritrosia nel sesso. La prima notte, dopo il ricevimento, ci ritirammo nella nostra stanza, senza riscaldamento e con poca luce. Lui, disinibito, pisciò nell'orinale, tanto era il vino che aveva ingurgitato, e mi ordinò di stendermi nuda. Approfittando del buio, in fretta e furia, mi spogliai. Dopo aver tolto il vestito, la sottoveste e le mutande, cominciai ad armeggiare con il corpetto, che feci fatica a slacciare. Mi sentivo impacciata e pure impaurita. Con addosso soltanto una camicia di lino bianco mi distesi come una morta. Battevo i denti per il freddo. Mi prese. Io, con le orecchie tappate, continuai a tenere gli occhi fissi al soffitto. Mi fizzicò prima le punte dei seni, poi umidì il mio sesso. E quando lo sentì bagnato al punto giusto, lo trafisse con una tale violenza, attimi di sorpresa, qualcosa di tenero e sofferto, qualcosa di strano che avveniva dopo una lunga attesa e si faceva subito banale, frettoloso, senza però perdere una vaga dolcezza. Dopo un mezzo rantolo capì che il lupo aveva soddisfatto i suoi appetiti. Quando vidi che se l'era cavata bene da solo, pensai che il suo ardore poteva bastare per tutti e due. Poteva capitarmi di peggio. Pasquale aveva due occhi vivaci sotto le sopracciglia fitte, denti sani e un corpo muscoloso, profumato di colonia francese. Un rivolo di sangue scese lungo le mie cosce fino a impregnare il materasso. «Mettete il lenzuolo al balcone! Mia moglie è vergine!» È meschino, ma imparerò ad amarlo. Dentro di me speravo. Si può bruciare un'esistenza in soli 4 anni? Si può. La volgarità di Pasquale sfuggì presto al suo controllo. Dopo 2 settimane di forzate attenzioni e passeggiati a chiaia, decise di vendere la carrozza. Il capitano Tria si giocava tutto. Più tardi fu licenziata la servitù e furono venduti tutti i volumi dell'enciclopedia a cui tenevo più di me stessa. Per pagare i debiti di gioco, mio marito aveva dato fondo alla mia dote e s'era impossessato della collana di nonna Eleonora, unico suo ricordo che custodivo gelosamente. Per non dargli un dispiacere a mio padre, restai ferma al mio posto. I muscoli delle mie cosce si indurivano ogni volta che Pasquale si avventava su di me, fino al giorno in cui restai incinta. Aspettavo un figlio. E per quel bambino diventai duttile e docile. Mi convinsi che si poteva vivere anche senza felicità. Bastava non pensarci. Pasquale si lamentava delle pietanze e io mi cucivo la bocca per non vomitargli addosso. Mio marito era sobillato dalle sorelle, gorgia sotto il mento e lingua biforcuta mi spiavano. Gli riferivano che restavo troppo tempo chiusa in camera a scrivere e lui mi coprì la faccia di schiaffi quando lesse: «Mi addolora sapere che la tua infelice vita coniugale ti abbia fatto passare la voglia di scrivere versi. Aveva preso le mie lettere, erano di Pietro Metastasio, che non aveva mai smesso di scrivermi. Dopo la sua morte rimasi isolata dal mondo, recisi tutti i contatti, i miei amici si dispersero. Mi salvò il bambino, mi ci affezionai prima ancora che nascesse. Dopo 7 ore di travaglio spunta dal mio sesso devastato una testa piccola e tonda, del padre solo la fossetta sul mento, gli occhi neri di fuoco come i miei, il naso per fortuna meno grosso del mio, e la bocca sembrava fatta a misura dei miei capezzoli, che teneva stretti tra le gengiva per succhiare il latte fino all'ultima goccia, mentre lui afferrava con tutte e due le mani il mio seno. Io gli parlavo in portoghese, se in quel tempo non ho scritto un verso sul mio bambino è perché la felicità è fatta per essere vissuta, avrei dovuto aspettare. Pasquale lo vedevo poco, tornava a casa sbronzo, sudicio, incurante di infettare il bambino, e per un destino crudele il piccolo cuore di Francesco cessò di battere. Tu regni in cielo, io qui me resto, misera, afflitta, e di te orba e priva. Figlio, mio caro figlio, ahi, l'ora è questa, ch'io solea amorosa a te girarmi, e dolcemente tu solo mirarmi, a me chinando la vezzosa testa, del tuo ristoro indi ansiosa e presta, itti cibava, e tu solevi alzarmi la tenerella mano, e i primi darmi pegni d'amor, memoria al cor funesta. Una disgrazia assurda, inammissibile. La morsa del dolore mi squartò, mi disfeci in mille pezzi. Nessuna traccia era rimasta della donna che ero stata. Lenore era sparita. Pasquale frequentava bordelli, mi chiamava donna Eleonora quando recitava la parte del conte, e Leonò quando fradicio divino si ritirava a casa a notte fonda, quando un giorno mi trovai una delle sue puttane in casa, immobile sulla soglia della stanza, guardai i loro corpi avvinghiati, lui nonostante me continuò ad accanirsi sulla prostituta e lei a mugolare piacere, urlai, urlai, non riuscivo a pregare, non credo in Dio, ne soffrivo un'assenza come una colpa, lo cercavo, aiutami! Ma Dio, che misericordioso non è! Non mosse un dito. Il calvario non era finito. Ero così afflitta che mi prostrai ai piedi di Pasquale. Lo implorai di darmi un altro figlio. Così il ventre si arrotondò di nuovo. Di nuovo si ripeté l'incanto. Ma ero troppo debole. Lo persi. Lo persi. Avvizzita nell'anima e nel corpo, scrissi a mio padre una lettera così triste che venne subito a trovarmi e mi portò via da quell'inferno. Carezzandomi i capelli per strada mi disse: ora sei libera. Libera. La libertà Esige il vuoto, il silenzio, la spogliazione. Restavo ore e ore a guardare il centro oscuro della stanchezza che si apriva in un cerchio sempre più grande. Era una stanchezza immensa, pesante. Tenevo gli occhi chiusi e cercavo di guarire. La mia anima aveva bisogno di riposo. Distesa accanto a mio padre, assistetti la sua fine. Ogni giorno diventava sempre più piccolo, minuto, e io su quel capezzale mi convinsi che la vita è niente. Presi definitivamente coscienza del limite, in cui prima o poi devono imbattersi gli umani. Fu un esercizio alla morte, l'occasione per riconoscerla meno terribile della vita. Mi servirà. Mi sentivo già vecchia, i seni penduli, il ventre afflosciato, i capelli crespi, sporchi, lo stesso abito nero per mesi e qualche goccia di profumo per nascondere il tanfo della stoffa lercia. Non mi lavai per settimane, in punizione per essere ancora in vita. Ma si può stare così, a guardarsi vivere, a vegetare, senza coraggio, senza zelo, senza devozione neppure per se stessi? Ragione Voltaire, bisogna comunque coltivare il giardino, perché un giorno, grazie al nostro insistere, spunteranno fiori, frutti, i bambini mangeranno. Se nessuno si occupa del giardino, il mondo finisce. Il miracolo avvenne in primavera, dopo il ritorno a Napoli di Vincenzo Sanchez, cominciai a incollare con pazienza i pezzi della mia vita andata. Me le esse i dolori del giovane Verdi, gli dissi che avevo pensato anch'io al suicidio, gli dissi che non avrei potuto più concepire, che non avrei potuto più dare la vita. E allora fa come gli uomini, in mancanza di meglio, partorisci con la testa. Fu contento di presentarmi Gaetano Filangieri, il grande giurista autore della scienza della legislazione, amico di Goethe, di Diderot, di Benjamin Franklin. Ricomparve Luigi Primicerio, gonfio come un tacchino per il titolo di primo poeta di corte. Per sedare qualche senso di colpa mi propose di scrivere una ballata in onore della zarina di Russia. Volli prendermi la rivincita e mostrargli di che cosa ero capace ed ebbi un tale successo da diventare una celebrità. Signor, è vero che stanotte ballato in Coppa Triate? Se n'era accorta anche Graziella. Decisi di uscire allo scoperto, di espormi in prima persona. Spalancai la casa alle nuove idee e a tutti quelli che le sostenevano. Ci mettemmo in gioco, mettemmo tutto in discussione. L'indipendenza d'America dava speranza a quei germogli di libertà che animavano il vecchio continente. Rivendicare il diritto alla felicità non è solo un fatto politico ed economico, ma anche culturale e morale. Nell'accurato esercizio della coscienza critica esaminammo il diritto e il rovescio del mondo e la rivoluzione ci sembrò a portata di mano. Leggevamo Le Moniteur, che arrivava dalla Francia con soli 7 giorni di ritardo e senza censure. Era il segno che il regno si stava ammodernando. Il re non offriva più al Papa lo scrigno pieno di denaro e di gioielli, ma i giovani erano convinti che la libertà conquistata dal basso non avesse nulla a che vedere con la libertà presa dall'alto. C'era bisogno di costruire un'alternativa alla monarchia. Sulla terra niente deve rimanere così come adesso, urlava Gennaro Serra. Quel ragazzino a cui avevo prestato i primi libri era cresciuto e quando sul monitor leggemmo la presa della Bastiglia, col cuore in gola, a casa mia, i volti illuminati dalla gioia, si gridò in coro: viva la Francia, viva la rivoluzione! Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous Arrestate dans les campagnes, Maria Carolina, ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorgés pour quitter vos bras. Barba, togliersi la parrucca o pronunciare parole come libertà e uguaglianza per essere indiziati di reato. I primi capi espiatori furono due fanciulli, studenti di legge, arrivati a Napoli da Minervino per seguire i corsi all'università. Vincenzo Galliani ed Emanuele Dedè. Emanuele, 22 anni, dritto e fiero sul patio, camicia e calzonetti da ragazzo. La morte reca orrore solo a chi non ha saputo ben vivere. Le sue ultime parole: avrebbe meritato d'essere deposto come un Cristo dalla croce e invece finì in un carro per disprezzo di una folla eccitata dal sangue. Non riconoscerò di essere guidata dalla giustizia più che dall'amore, perché la giustizia è anche una forma d'amore. Mi preparai al salto finale. Io e Lauberg andammo a misurare la situazione nei bassi. Soliti sghignazzi, schiamazzi, venditori di pesce, contrabbandieri, scene di miseria nella norma. Nessuno sapeva di Necker, del Terzo Stato o della Costituzione francese. E all'improvviso, voi a cavo, Natai, perché addostate voi, arrivano sempre soldati. Noi siamo liberi di camminare dove vogliamo. A me il giacobino non mi piace. Noi vi daremo la libertà. Noi siamo già liberi. Liberi di crepare di fame, libero e morire di fame. Come potevamo pensare di sconfiggere quella barbarie? Io provavo nausea per il degrado dei quartieri e in qualche modo orrore per me, invaghita delle novità francesi. L'agio della mia casta, a confronto di tanta povertà, mi pareva folle. Vivere è un privilegio soltanto per i ricchi, appagante soltanto se non si pensa come vivono i poveri. Io sono nata in quel mondo, appartengo a quella classe, ho conosciuto gli incanti di quella vita così piacevole. Con quanta naturalezza gli esseri umani si adattano all'abiezione, alle menzogne, ai vantaggi immeritati. Bisogna essere ottusi e servili per natura per non vedere quanto sia ignominioso che in così pochi monopolizzano educazione e ricchezza, infliggendo agli altri tutte le sofferenze. Ma come si fa? Ero confusa, ma ebbe l'impulso di proteggere Gennaro. Gli fui vicina quando Lauberg ci affidò l'incarico. Bisognava lasciare a corte dei volantini di propaganda per la rivolta in via Toledo. Io, nei saloni della Reggia, col corpetto gonfio di quei fogli. Folla, color inglese, il rosso era troppo giacobino. La regina puntava ormai sull'Inghilterra, con lei Hamilton sempre a suo fianco. Dove lasciare il mio sulla sedia? No, sullo specchio, no, nella tenda. Apro la porta, puzzo di piscio, vitali, dietro la tenda, sì, li lascio lì. Sudavo freddo ed ero preoccupata per la scrittura di Gennaro, poteva essere mio figlio. Piano, piano, uscendo, mi prese, sorridendo sotto braccio. Fatta, compiuta la missione. Il giorno dopo mi stai a letto. Valeriana, per sedare un'ansia, mi faceva battere i denti. Gennaro, nel vedermi così spaventata, disse a Laura: non dobbiamo più coinvolgere il nonno. Pronunciò il mio nome con una tale dolcezza che, quando lo guardavo, mi perdevo nei suoi occhi. Ci ritrovavo il mio Francesco. Anche lui sarebbe diventato un patriota. Quanti anni avrebbe avuto? Quanti rischi avrebbe corso? Gennaro! Gennaro! Un sentimento così innocente. La rosa che da tempo aspettavo e tenni per me. Solo per me. In nome del re, aprite! I gendarmi colpirono con i fucili la porta di casa. Graziella in lacrime assistette impavida alla perquisizione. Trovarono solo libri di Diderot, Filangieri, Genovesi. Erano proibiti e questo bastò ad essere considerata una nemica della monarchia. Gennaro aveva raggiunto i francesi a Roma. Graziella Bocconi sul pavimento si torceva, ululava, come se dalla casa stessi uscendo il morto. Fui trascinata nel carcere del popolo alla vicaria. Interrogata non ebbi cedimenti. Il re ti ha mandato ogni mese un assegno e tu ti sei messa contro di lui. Non accetto la carità dei tiranni. Vuoi tagliare la testa al re e alla regina? No! Mi rifiutai di fare i nomi e restai dentro. Relegata nella fossa profonda del Panaro, mi affidarono a due monache manesche. Dovevano rendermi la vita impossibile. Iniziai nell'ora d'aria a frequentare le altre carciate, ladre, assassine, prostitute. Dovevo capirle, Il lavorio della mente mi teneva compagnia, mi restituiva il respiro, il ritmo del cuore. Palombella, zumba e vola, addostano nella una notte un canto attraverso le sbarre, un messaggio, coraggio, adusma, bionca e me, pietro, nuso, ronca e verde, championè, marcia su Napoli, il re è in fuga, le prigioni presto saranno aperte, io sono qui che vi aspetto. Era Gennaro. Notte chiude, io sto sempre a sospirare. Palomero, vola, vola. Colpi d'ascio, spada, i ladri moderni in pugno, fanno saltare poste e chiavistelli. Liberi tutti, ladri, assassini, banditi, prostitute. Ed io, libera, in mezzo alla rivolta. Gennaro era lì come promesso. Scalzi, gli occhi iniettati di sangue, l'alza li spaccavano vetri assassate, entravano nelle case di ricchi e le spogliavano, mucchi di cadaveri. Crudarrai, con paradiso, tu si chiuda i palombe. Libera, lontana dai topi e dai vermi della vicaria, ripresi a mangiare, un filo di carne addosso e l'anima rinvigorita. Il re e la regina in fuga verso Palermo spogliarono Napoli, depredandola di tutti i suoi tesori. Scomparvero all'orizzonte sulle navi inglesi gli uomini tristi d'una corte pavida e ambiziosa, le peggiori coscienze del regno. Alula, io, per cura la testa, Palumme, mi dai l'attacco a Castel Sant'Elmo, cittadine, o vita o morte, il sangue tricolore cucito con le pezze prese ai santi della certosa, era il segnale per Championè, i francesi ma si vide, l'altro continuavano a uccidere e saccheggiare, molti si fecero massacrare e nato, strascolato, bello di piano, odore, polvere da spa, nato porzi. Onore agli eroi e ai napoletani, disse il generale francese sul palco della vittoria. Dichiaro decaduta per sempre la monarchia e costituita in nome del popolo la Repubblica Napoletana, una e indivisibile. Era il 21 gennaio. Col ritorno di Pagano si pensò ad un governo provvisorio, l'avvio della Costituzione. Carlo Lauberg assunse responsabilità politiche e affidò a me il compito di dirigere il monitore napoletano. Dovevo essere chiara, soprattutto con me stessa, che cos'è una rivoluzione, come nasce, a che serve, per i figli, per i nipoti, a chi andrà questo monitore? A Napoli non sa leggere nessuno, ai pochi appassionati disposti a sudare sopra un foglio di carta stampato, agli intellettuali, a quelli che sono già convinti. Allora il giornale è perfettamente inutile. No, no, quelli dei nostri, che hanno cultura, dovranno leggere per chi non sa leggere, così raggiungerà lo scopo. Dovrà stare su due colonne, larghe, caratteri grandi. Il monitore napoletano, una barra, la data, niente più. Agli angoli del primo foglio, libertà e uguaglianza. Fu la mia condanna a morte. Riportavo con dedizione tutto ciò che accadeva nel vecchio regno, abbandonato dai sovrani in fuga. Consapevole dei problemi politici ed economici, non penso d'aver avuto torto nel considerare l'educazione, l'istruzione, la cultura il nostro compito più urgente. Che cos'è una rivoluzione se non cambia i cuori e le menti? Un'attività appassionata senza tregua, come se tutta la vita si fosse concentrata in quei 5 mesi, ma non bastò. I napoletani non si fidarono di noi. In maggio la Francia ritirò le sue forze, lasciandoci senza soldi e senza esercito. Trafugarono mobili, arredi, opere d'arte. La reggia, ridotta a una bettola, completò il saccheggio della città. Non mi arresi, no, non mi arresi, scrissi. L'Italia farà da sé. Unitevi di menti, di forza, di volontà. Profittate di questo momento, tali sarete per sempre, come ora vi mostrerete, meritevoli o no di essere un popolo libero, perché la libertà non può amarsi per metà e non produce i suoi miracoli che presso popoli del tutto liberi. A preoccuparsi della mia sorte tornò Primicerio. Luigi venne da me per scongiurarmi di partire. Non posso lasciare il giornale, è un tempo che mi riguarda, non posso scappare come una serva qualunque. Si vergognò della sua debolezza, mi accarezzò, un fremito mi scosse, scoppiai in singhiozzi, poi l'istinto guidò i nostri gesti. È bello farsi scegliere, ma farsi scegliere è scegliere. Movimenti lenti unirono i nostri corpi, portandoci insieme ad una pienezza che non avevo mai provato. L'ultimo piacere prima del disastro. Battevano, pestavano, sparavano, strangolavano, lapidavano, impalavano, bruciavano, smembravano. Migliaia di galeotti rilasciati dalle carceri siciliane per ordine regio sotto il vessillo della Santa Fede si riversarono a Napoli, unendosi alle bande dei Lazzari fedeli al re. Ancora sangue, incendio, saccheggio, morte, corpi arrostiti e mercato di carne umana. In testa il cardinale Guerriero, campione di Gesù, alleati fra loro, dispotismo e sacerdozio, mostrarono di che cosa sono capaci. Sola a dirigere il monitore, ho continuato a cercare consensi, lettori, sostenitori, incurante degli attacchi e delle minacce. L'ultimo numero, il 35, doveva andare in stampa. Lo leggerà qualcuno? Il male è qualcosa di simile allo spazio, tutto lo spazio che c'è. Quando immagini d'aver raggiunto il limite, è solo un confine, un muro. Dall'altra parte c'è qualcosa. Quando pensi d'aver raggiunto il fondo, c'è sempre qualcosa che bussa da sotto. Il 13 giugno all'alba il cardinale Ruffo lancia l'assalto, la nostra ultima difesa a Castel Sant'Elmo, una resistenza estenuante, febbrile, nella speranza ingenua che i nostri ideali potessero fermare la furia violenta del potere. Fuori dal castello catturano Gennaro, dentro colpiscono Luigi alle spalle. Faccio appena in tempo ad abbassargli le palpebre, ad accogliere il suo ultimo respiro nella mia bocca. Ci sarà un posto dove incontrarsi. La bandiera di stracci è crollata. Usciamo con dignità. Sputi, urla, minacce, nell'aria gli odori dolci dell'estate napoletana e una folla inferocita. Che pietà! Ci imbarcano su di una lancia, la Tartara che ci aspetta all'Erbo è diretta in Francia, a Tolone. In esilio cosa farò? Napoli dall'alto è stupenda, un paese d'oro segreto, il Vesuvio, il mio Vesuvio ardente, una speranza di vita. Eleonora Fonseca Pimentel! Eleonora Fonseca Pimentel! Il mio nome, urlato, la realtà. Hanno cambiato idea, ci riportano indietro. Tutto molto più semplice. Ci fanno fuori. E voi avete scritto libri, giornali pieni di schifezze, avete parlato in pubblico, una donna, che dissoluzione, non vi mettete scuorna, puh! Via davanti a me, mi disgustate. Pena di morte. Questo è stato il processo. Penso a loro, alle donne di Napoli, alle infelici, spaccate, deformi, imbestialite, offese in ogni piega, ingiuriate nell'anima. A Graziella penso, ci sarà. Il nostro sforzo di cambiare il regno di Napoli, di costruire una società civile, è finito nello sfacelo. Servirà ricordare tutto questo, che il popolo ritrovi l'anima perduta. Resta per me una speranza. Sono pronta.